9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Lo zoo comunale, tipo quello del PDL che adesso si sveglia per evitare di fare doppie elezioni, una pre-regionale e una nazionale, e dicono: monti a casa, perché noi non possiamo votare in due giorni diversi. La verità vera è che, siccome al secondo non ci arriverebbero per le botte del primo, vogliono mandare Monti a casa per questo. Veramente zoo comunale. Io no, tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe andare tutti quanti, ora che primavera. Vengo anch'io, no tu no. Con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Il vengo mondo anch'io. Migliore, il mondo migliore. Come mai quando i razzi arrivano su Israele nessuno li mette se non a pagina 84? Quando Israele elimina chi ha tenuto un suo militare per 6 anni come un animale, tutti insorgono con Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Guardate, qua non si tratta di dire che la violenza è giusta da una parte e non dall'altra. Si tratta di non far finta di vederne una buona, quella di Hamas, e considerare cattiva solo quella di Israele. Lo so che molti non siete d'accordo, però pensateci. Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale. Vengo anch'io, no, no. Per vedere se la gente poi piange davvero e capire che per tutti è una cosa normale e vedere di nascosto l'effetto che fa. Allora, cari ascoltatori, andiamo al tema della giornata, che è un tema molto serio e quindi mi, devo dire, fa abbassare i toni in questo inizio di trasmissione, tranne su un punto. Il tema della giornata ve l'ho anticipato nel lancio della trasmissione, e sono le proteste di ieri che hanno infiammato le piazze, le strade, le vie, il lungotevere a Roma, insomma di molte città italiane. È evidente che dietro c'era una regia concordata, per così dire, cioè il grande inizio della protesta autunnale. Sono stati gli studenti a dare questo inizio, ma una vera e propria guerriglia come quella di ieri pone una domanda a tutti, ed è questo ciò di cui ci occuperemo oggi con i nostri ospiti, e spero anche con molte vostre telefonate, per capire se siamo solo all'inizio di una stagione caldissima destinata nella protesta sociale ad accompagnarci fino alle prossime elezioni politiche, da cosa sia dovuta, se salta quella illusione, ma fondata secondo me, per la quale la coesione sociale italiana era di gran lunga maggiore a quella di altri paesi scossi dall'eurocrisi come la Grecia, come la Spagna, se invece c'è una frattura di continuità anche su questo, a che cosa si debba. Vi leggerò alcuni pezzi degli editoriali di oggi con diverse tesi che si avanzano sui media. C'è chi pensa che sia per la debolezza della politica, c'è chi pensa che sia perché in realtà gli italiani poco a poco, ma si stanno rendendo conto che la loro situazione situazione di redditi, patrimoni e di mancanza di futuro non è assolutamente diversa da quella greca e quella spagnola. Molte sono le tesi, sentiremo quelle dei nostri ospiti e le vostre. Fatemi tornare solo su una cosa che nelle ultime due mattinate ci ha infiammato come code polemiche di nostri ascoltatori. Mi riferivo all'area della Continassa a Torino. La società, la Juventus, non direttamente con me, ma tramite i miei collaboratori, ha mandato molte precisazioni e moltissimi sono stati poi messaggi dei tifosi juventini. Io già ieri ho detto, nel proseguo della trasmissione, dopo il primo pezzetto riservato, che liberi ciascuno di tifare per le squadre che vuole. Non c'entra niente però il tifo con il non rilevare che vi sono conferimenti a quei prezzi, come avviene con l'area della Continassa vicino allo stadio della Juventus, da parte del comune di Torino, che configurano qualche cosa sulla quale tutti i cittadini, per qualunque squadra tifano, dovrebbero tenere gli occhi spalancati, perché regali non bisognerebbe farne. E il fatto che il comune abbia sbagliato più volte, due volte in passato, a investire nell'area e poi a bandire una gara che qualcuno ha vinto però per un cartodromo, non giustifica comunque un regalo, capite? Allora, per farvi riflettere su quei 58 centesimi a metro quadrato di quell'area, naturalmente l'evento si dice non sono 350.000, sono 180.000, bla bla bla, però poi insomma i numeri sono i numeri, ciascuno la mette come vuole. La Juventus dice sì, però in realtà il comune ha fallito, quindi meglio che se ne occupi qualcuno piuttosto che nessuno. D'accordo, io non sono d'accordo con il prezzo, possiamo dirla questa roba, che non sono d'accordo con il prezzo, cioè con il favore fatto alla Juventus e alla Fiera. Non sono d'accordo, sono torinese, questa storia la conosco da un secolo ed è sempre la stessa, ed è oltretutto non cambia qualunque sia il colore politico di chi ha il governo. Dopodiché pronto a venire qua e a ragionare con voi sui prezzi comparati, vi faccio riflettere sulla lettera di un nostro ascoltatore che ci parla invece di quello che è lui, un privato cittadino come tutti noi, sta subendo per via di che cosa? Di un prezzo immobiliare, così vediamo se sono tutti uguali, a me non sembra proprio. Allora ci scrive Antonio e Antonio, a proposito di questa notizia dei 58 centesimi a metro quadrato alla Juventus, cioè 5.800 euro per ettaro, ci dice che lui nel 2010 insieme ad altri soci ha acquistato un terreno agricolo seminativo di circa 4 ettari nella provincia di Livorno a 19.000 euro spiccioli per ettaro, capito? Un terreno agricolo, non i 5.800 con cui con raddoppio della base edificabile per la Juventus vicino allo stadio, più di tre volte tanto. E a questo punto che cosa succede ad Antonio? Succede che gli viene recapitato adesso un avviso di accertamento da parte naturalmente dell'Agenzia delle Entrate. Cosa fa questa Agenzia delle Entrate? Si basa su una perizia dell'Agenzia del Territorio e a questo punto dichiara che il valore commerciale del terreno non è di 70.000 euro, cioè 19.000 rotti euro per ettaro moltiplicato 4 rotti il numero degli ettari, no. Non 70.000, ma 147.000 euro, cioè più del doppio, e quindi l'Agenzia delle Entrate chiede altri 17.000 euro tra imposte, sanzioni, interessi, eccetera, eccetera. Dopodiché allora il nostro Antonio dice, ma come diavolo avete fatto a valutare, più che raddoppiando, il valore commerciale del terreno agricolo che ho comprato nella provincia di Livorno? E scopre che hanno preso all'Agenzia delle Entrate in esame tre offerte di vendita rilevante presso le principali agenzie immobiliari operanti in zona, cioè sono andate praticamente a vedere nelle vetrine delle agenzie i prezzi che sono esposti, tutto qua. Su questa base hanno raddoppiato il valore, hanno ovviamente raddoppiato la richiesta fiscale di sanzioni. Per di più gli dicono che il terreno è libero da servitù e pesi, quindi lui deve pagare ancora di più, quando non è vero, perché ci sono ben tre elettrodotti ad alta tensione che lo accompagnano. E Antonio si ferma qua perché naturalmente ci dice questo è il modo nel quale in questo paese tu compri una cosa su cui hai tantissimi limiti, non puoi naturalmente costruirci alcunché, l'Agenzia delle Entrate avviene che poi ti raddoppi la base sulla quale tu l'hai pagato, e questo è il suo criterio di rilevazione. Dall'altra parte apprendo che c'è la Juventus a meno di un terzo del prezzo da me pagato e che a questo punto diventa meno di un sesto di quello dell'Agenzia delle Entrate che pretende che sia, io non ci potrò far nulla e ho servitù che lo Stato nega ci siano sopra il mio terreno, loro ci faranno quello che vogliono. No, ma giusto per così, per rilevare come va la vita alle persone normali come noi e come, perché poi noi non dovremmo neanche protestare se il Consiglio Comunale di Torino decide di dare per 58 centesimi al metro quadrato alla Fiat un po' di centinaia di migliaia di metri quadrati di territorio edificabile. Fine di questa ulteriore parentesi. Andiamo agli scontri. Allora, vediamo un po' alcune tesi prima di presentare il nostro primo ospite e chiedergli opinioni. Dai giornali di oggi, cominciamo per esempio con quanto scrive il Fatto Quotidiano. Il direttore del Fatto Quotidiano, Antonio Padellaro, titolo in prima pagina: Popoli contro tecnici, l'altra Europa si rivolta. Da Lisbona, Atene, Madrid, Parigi e Roma, Milano, Torino e Padova, centinaia di migliaia di lavoratori e studenti contro le politiche di austerità. Scontri un po' ovunque con le forze dell'ordine, tra cariche violente, scene di guerriglia urbana. Grillo agli agenti, questo è stato uno dei segni della giornata di ieri, unitevi alla protesta. Antonio Padellaro scrive: spaccare la testa a un poliziotto è criminale, massacrare con i manganelli chi protesta però è criminale. Una triste equazione che serve a poco, perché queste sono le inevitabili conseguenze di una violenta giornata italiana, ma incendiata, dice Antonio Padellaro, da una miscela confezionata altrove. Dove? Lo sappiamo troppo bene, continua. Nella stanza dei governi che a Roma, ma a Madrid, Lisbona, Atene e Parigi stanno iniettando massicce dosi di austerità nelle economie di nazioni disastrate. Una spietata religione del rigore, celebrata dai sommi sacerdoti dell'euro, che uccide il lavoro, che non crea sviluppo, che diffonde nei popoli depressione e sfiducia nel futuro. La guerriglia scatenata nelle strade della capitale, a pochi metri da Palazzo Chigi, ma anche a Milano, Torino, Brescia, dovrebbe far riflettere Monti e i suoi ministri. Vado alla conclusione. Dopo aver descritto le piazze affollate di impiegati, insegnanti, ricercatori, commercianti, espressione di un ceto medio massacrato dai tagli, e dopo aver detto che c'è una massa di giovani senza occupazione, frustrati, esasperati, abbandonati, la domanda per Monti, con cui conclude Padellaro, è: Presidente Monti, non è anche questa violenza, il fatto che nessuno dia loro una risposta, non è questa la violenza peggiore? Io non sono d'accordo sul fatto che questa sia la violenza peggiore, però detto questo è una tesi molto forte. Andiamo, il giornale naturalmente radicalizza la parte opposta, fa un titolo: volevano il morto e Grillo sta con loro. Ma... dopodiché invece sulla Stampa di Torino, titolo: guerriglia ai cortei anticrisi, a Torino gli scontri sono stati molto intensi, si è tentato l'assalto anche al grattacielo di Intesa San Paolo, un po' il simbolo, no, della resa bancaria dell'ex San Paolo al gruppo invece milanese, la seconda banca nazionale dopo Unicredit, che ha più asset all'estero, Intesa però la prima per raccolta in Italia. E anche qui la Stampa dice: l'Europa sciopera, scontri nelle città, ma l'editoriale di Gianenrico Rusconi dice: ciò che maggiormente dispiace è che i nostri ragazzi si sentano abbandonati e quindi si lasciano infiltrare e trascinare da facinorosi violenti nei gesti o nelle parole, perché ieri è stato evidente a Roma sul Lungotevere, per esempio, che un po' di gruppi da fuori Italia sono venuti, ed è questo che si teme, un calendario internazionale dell'insurrezionalismo, per così dire. Che fare? Prosegue verso la fine dell'editoriale Gianenrico Rusconi sulla Stampa. La situazione politica è delicatissima, le scadenze per nome nei prossimi mesi della politica democratica normale, bla bla bla, sono strette e rigide, ma proprio per questo invitiamo il governo Monti a un soprassalto di iniziativa politica sociale, a dispetto dell'etichetta di governo tecnico che inerzialmente si continua ad attribuirgli. Il suo compito finale è lasciare ai cittadini italiani non una società stremata, depressa, in cattiva vita, ma una società pronta a riprendere la nuova normalità in uno spirito di nuova equità. Sul Messaggero, giornale di Roma, che è stata molto colpita dalle violenze di piazza, ieri c'è un'intervista del ministro Andrea Riccardi. E il ministro Andrea Riccardi di Sant'Egidio, titolo, vi leggo solo questo: temo chi solidarizza con i violenti. La tesi è che i giovani hanno ragione, vedono il futuro bloccato, ma devono guardarsi dalle infiltrazioni, no? Per così dire. Infatti è il titolo del Messaggero: nessun alibi per i violenti. Il Corriere della Sera parla di impasse dei tecnici, che in realtà ha più a che vedere con il calendario del voto, e il titolo dell'editoriale, e qui mi fermo per il momento, di Marco Imarisio, era il malessere non sia un alibi, perché la tesi è che sul calendario internazionale degli antagonisti italiani ed europei questa data, il 14 novembre, dello sciopero europeo contro il rigore, era segnata da tempo, e quindi siamo di fronte a una regia, e la tesi è che non bisogna giustificare assolutamente i professionisti del caos. C'è una regia internazionale di chi pensa di infiammare le piazze di qui ai prossimi mesi, ed è evidente che questo non c'entra un'altra questione rispetto alla condizione dei giovani e dei disoccupati italiani. Allora, sentiamo come su questo la pensa innanzitutto Domenico De Masi. Domenico De Masi insegna sociologia delle professioni a Scienze Sociali all'Università La Sapienza. Lo ringrazio di essere con noi. Professor De Masi, ieri che cosa ha pensato? Se l'aspettava, e tra quali di queste tesi la convince di più o di meno? E dunque, noi sappiamo da tempo che confrontano alcuni fattori che spingono verso il conflitto e altri fattori che spingono verso la coesione, come sempre del resto. I fattori che spingono verso il conflitto sono una cattiva divisione del lavoro, per cui alcuni ne hanno troppo, altri troppo poco, una cattiva divisione della ricchezza, una cattiva divisione del potere, una cattiva divisione del sapere, una cattiva divisione delle opportunità, una cattiva divisione delle tutele. Naturalmente questa cattiva divisione porta al conflitto ed è aiutato da uno strumento nuovo che non c'era ai tempi di Marx, cioè da internet. Dall'altra parte ci sono fattori che spingono alla coesione. Abbiamo sentito per esempio questa sua cavalcata attraverso i giornali: tutti contro la violenza, tutti a favore della prudenza, tutti a favore dell'equilibrio. Sono i partiti, sono la religione, sono la prudenza e la paura individuale, e tutti aiutati dai media tradizionali. Questo scontro, che prima era nazionale, ora è diventato globale. Il primo a globalizzarsi è stato il capitale, sono state le imprese. La globalizzazione è stata rapidissima, ha preceduto di gran lunga la globalizzazione del lavoro. Lo sciopero di ieri è importante, secondo me segnerà un punto comunque storico nella storia dei conflitti e del lavoro, perché è il primo conflitto di un intero continente che viene proclamato, quindi ufficiale, che esce dalla dimensione informale, che è la più pericolosa, e entra nella dimensione formale. A tutto questo bisogna aggiungere, secondo me, una serie enorme di bugie. Su tutte quelle divisioni del lavoro, della ricchezza, del potere mancate e che occorrerebbe invece assolutamente produrre al più presto da parte dei governi soprattutto e da parte della classe dominante, ci si aggiunge una serie di bugie. Per esempio sul lavoro si continuano ad accumulare bugie su come si risolve la cattiva distribuzione, e cioè si attribuisce a una fantomatica crescita futura che non arriva mai la soluzione della disoccupazione giovanile, che invece viene aggravata prolungando di 3 anni gli anni di lavoro, e quindi escludendo 7 milioni di giovani per 3 anni ancora dalla possibilità di lavorare. Brecht diceva che noi di solito constatiamo la violenza del fiume e non la violenza dei margini che lo contengono. Ieri si è visto che il fiume si straripa, ma bisogna tener conto dei margini, degli argini che lo contendono e che sono terribili. A me sembra che questa situazione somigli tantissimo alla metà del Settecento, quando degli illuminati straordinari, geniali, aristocratici, da Voltaire, da Lambert, di Diderot, avvertirono gli altri aristocratici che la distribuzione del potere e della ricchezza era iniqua. Questo avvertimento non fu accolto e purtroppo 20 anni dopo, 30 anni dopo, ci si ritrovò con una rivoluzione ben più violenta, perché quando la nostra classe, la mia, la sua, la classe di gran parte degli ascoltatori, immagino, cioè la classe borghese, prese il potere, non badò a spese per quanto riguarda la violenza, installò un paio di ghigliottine in un paio di piazze di Parigi e ghigliottinò oltre 3.000 persone. Quindi anche quando si parla di violenza bisogna tener conto che esistono varie possibilità, vari livelli nell'escalation della violenza, e tutto quello che sta avvenendo è soltanto un'avvisaglia. Io credo che tutti gli elementi analizzati in modo freddo, sociologico, senza ideologia, portano a un incremento della violenza nei prossimi anni, è un'avvisaglia. Sta a noi creare quegli elementi di coesione, ma reali. Noi abbiamo trascorso mesi a discutere dell'articolo 18, che è un'inezia di fronte al fatto che 10 persone, proprio una, due, tre, 10 persone in Italia posseggono la stessa ricchezza di 3 milioni di poveri. Ecco, di fronte a questo, inoltre esaltato dalla visibilità che sembra maggiore, noi non possiamo che attenderci altra violenza, e non avremo scuse quando questa violenza arriverà. Allora, io personalmente immaginavo e sapevo che questa fosse la lettura di Domenico De Masi, e per questo ho scelto di proporvela, come anche quella del secondo ospite che arriva dopo l'interruzione pubblicitaria, perché è il caso di andare alla sostanza, cioè di evitare di fronte a questa protesta come alle prossime la consueta regia delle parti obbligate a povera polizia, ovvio, solidarietà alle forze dell'ordine, solidarietà a chi viene colpito nel patrimonio dei propri beni per le violenze di piazza, solidarietà alla comunità ebraica di Roma per quei fascisti greci o chiunque fossero che sono andati lì a fare il saluto romano e dire Saddam Saddam alla comunità ebraica. Detto tutto questo, qui c'è un problema di fondo, se vogliamo interrogarci, ed è su coloro, molte centinaia di migliaia, anzi purtroppo alcuni milioni, solo in Italia, buttati fuori da qualunque possibilità di reddito dignitoso e di produzione. E su questo un mercatista come me, chi non è mercatista e appartiene ad altre tradizioni o socialiste o collettiviste o comunque cattolico sociale eccetera eccetera, può avere ricette diverse, ma il fatto innegabile è questo. Lasciate perdere gli studenti che poi a 16 anni fanno la loro iniziazione, diciamo così, come sempre capita in ogni generazione, con l'idea di virilità o di essere adulti, e qualcuno gli mette in mano i caschi, le mazze, e vanno a provarsi con la polizia. Il problema di fondo è questo, di cui ha parlato De Masi, come è noto. Io so alcune ricette di risposte con De Masi, non sono d'accordo, ma sono d'accordo che il problema è questo. Quindi Massimo Giannini su Repubblica parla oggi di due violenze sbagliate, e dice che quali sono le violenze? Da una parte è sbagliata la violenza della piazza, dice, parla di violenza sciagurata, e su Repubblica insomma, ha il suo perché questo giudizio, però dice che quello che non è affatto giusto, per ragioni uguali e contrarie, è che a questa violenza sciagurata della piazza si risponda con una violenza esagerata dello Stato, cioè si dice al governo e alle forze dell'ordine: guardate che il primo giorno di prova di un calendario di proteste che potrebbe essere molto intenso e acuto nei prossimi mesi, e lo Stato non l'ha superato, perché non siete stati capaci di capire che non è con i manganelli che bisogna dare una risposta alle ragioni giuste, quelle cioè di cui ci ha parlato De Masi, di questa protesta. Eccoci tornati in diretta a parlare del tema che da ieri, nei prossimi mesi, continuerà a essere ben presente, io credo, nella vita italiana e quella europea. Ieri esordio delle proteste autunnali, per così dire, ma con una caratteristica, la durezza, la forza della protesta che da Torino a Roma, a Milano, a Brescia, in tutta Italia si è vista nelle piazze, e ci stiamo interrogando sulle ragioni, la portata di questo fenomeno, le ragioni profonde per cui siamo arrivati forse al venir meno di quella rassicurante tesi per la quale l'Italia non conoscevano i fenomeni di durezza paragonabile alla protesta sociale che abbiamo visto in questi due anni ad Atene, l'abbiamo vista a Madrid. Si diceva in Italia i fenomeni di tenuta, la consistenza patrimoniale delle famiglie, il fatto che siamo andati avanti per anni con gli ammortizzatori sociali in deroga, per così dire, ci consentono di non vedere proteste altrettanto dure e motivate. Oggi lo sgomento che si vede in molti commenti che abbiamo visto negli editoriali in realtà ripropongono che, come sempre, l'Italia non arriva nella consapevolezza della gravità della crisi che colpisce milioni di italiani, li colpisce nel reddito, li colpisce nel patrimonio, ma li colpisce già per aver disegnato per pezzi interi di generazioni e di strati sociali il fatto di non poter partecipare a livelli di reddito dignitoso, chiamiamolo così, perché questa è la condizione nella quale stanno. Persino il Sole 24 Ore, nei suoi doppi editoriali di stamattina, da una parte se, come è giusto, fa un editoriale che dice non è mai la violenza a creare il lavoro, dall'altra affianca una lettura in cui gli elementi di cui parlava Domenico De Masi prima ci sono tutti, perché il titolo del secondo editoriale del Sole, firmato da Adriana Cerretelli, il primo di Alberto Rioli, ma quello di Adriana Cerretelli, è: se l'Europa non si muove si ammalano tutti i paesi, che poi è uno degli altri dati delle presenze internazionali che ieri c'erano nelle piazze italiane, e del resto era europeo il giorno di protesta. Piccola riflessione prima di andare al secondo ospite: pensate alla distanza incolmabile che c'è tra quello di cui stiamo parlando e Giovanni Amato, che ieri sceglie di dire, lui che ha 31.000 euro di pensione al mese, sceglie di dire: ma oggi tutti vogliono deputati giovani e magari con limite di mandati, cosa facciamo poi, visto che tutti vogliono che prendano il vitalizio non subito ma all'età pensionabile di tutti gli altri, cosa fanno poi alla fine questi poveri deputati? Fanno gli esodati di Stato? No, gli dobbiamo dare un po' di annualità per consentirgli il reinserimento nel mercato del lavoro. È ovvio che Giovanni Amato evidentemente non si rende conto dell'incolmabile distanza che c'è tra parole come le sue, di fronte alle quali la gente si incazza ancora di più, e la realtà vera, che poi vive un pezzo d'Italia non proprio secondario, un pezzo grande fatto da alcuni milioni di italiani, con le aziende che chiudono, col lavoro che se ne va e con le pretese fiscali dello Stato aumentato. Allora, in questa continuiamo con l'opinione di un'altra persona la cui tesi è netta, che ho scelto apposta per farvi riflettere, la tesi di Giorgio Cremaschi. Giorgio Cremaschi, lo ricordate, qui non parla in quanto sindacalista della FIOM più dura, qui parla come portavoce del comitato No Debito, che è stata una delle sigle che ieri stava in pieno nella giornata di protesta europea. Grazie e buona giornata, Giorgio Cremaschi. Grazie, buona giornata. Volevo dirle che non parlo più in quanto FIOM, perché nel sindacato ha tanti difetti, poi ne parleremo magari, ma uno almeno ce l'ha, almeno il mio sindacato, di pregio, cioè quello che appunto ha risolto la questione, cioè si fanno due mandati e poi si va a casa. Esatto. Io quindi ho finito i miei mandati dentro la FIOM e quindi adesso sono un libero militante che sceglie cosa fare. Esattamente. Allora, sorpresa di fronte alle proteste di ieri, e la tua opinione, come proseguiranno, quale sbocco avrà, qual è la distanza incolmabile rispetto a ciò che la politica e le altre rappresentanze sociali offrono a chi va in piazza? Ma la distanza a me sembra in questo momento enorme, adesso incolmabile è un giudizio che riguarda il futuro, non sono in grado di darlo, ma oggi è enorme, se penso appunto. Due cose: da un lato appunto il fatto che anche questo governo, che doveva essere il governo come si autodefinisce della verità, poi sta raccontando una narrazione, per usare un termine che si usa, cioè l'idea che stiamo facendo i sacrifici ma si vede la luce in fondo al tunnel. La gente sa che non è così, perché le condizioni sociali stanno peggiorando, noi stiamo andando a marce più rallentate nella direzione della Grecia e della Spagna. La crisi, non c'è un solo elemento economico della crisi che volga al positivo, e quindi questo è il dato di base di tutto. Se non si ragiona su questo, è evidente che dopo diventa solo teatrino. Secondo, la distanza, se io penso appunto, scuso della parola teatrino, allo spettacolo che c'è stato lì a X Factor, ai candidati del centro-sinistra, che in qualche modo dovrebbero essere quelli che si assumono il compito di rappresentare chi scende in piazza in sciopero, eccetera, e il vuoto totale di proposte, di iniziative, cioè nessuna discussione vera sulle misure dell'Europa. Cioè, per dirne una, la signora Merkel ha detto una cosa brutale ma vera: potete scioperare, ma le misure sono quelle. Allora, le misure, il fiscal compact, i patti di stabilità, le misure adottate oggi dall'Unione Europea, che vengono trasferite seccamente dai governi, vengono messe in discussione o vengono mantenute? E se vengono mantenute, che cosa si aggiunge a questo? Cioè, è tutto finto, non c'è nulla. Io non sono in grado, eppure un po' leggo le cose in giro, di spiegare quali sono le proposte concrete che si fanno per affrontare la crisi. Da questo punto di vista mi pare capisco di assumere una posizione che sicuramente non va per la maggiore, ma io penso che la giornata di ieri sia positiva anche per la rabbia che ha manifestato, onestamente anche per la rabbia dei giovani, perché le manifestazioni sindacali, diciamoci la verità, sono state in Italia in particolare ancora manifestazioni, come si dice, un po' di basso profilo, e noi non avremmo parlato sostanzialmente della giornata di ieri con queste intensità e con questo interesse se non ci fossero stati in giro per l'Italia migliaia e migliaia di giovani, che sono gli studenti, ma non solo più gli studenti, perché io ero a Roma, ci sono i giovani precari che non riescono a lottare nei loro posti di lavoro perché sono precari, perché fanno contratti da 400 euro al mese quando gli va bene, eccetera, quindi non hanno, come si dice in linguaggio sindacale, potere contrattuale nei loro posti di lavoro o dove sbarca nel lunario, e che quindi adoperano sicuramente questi momenti, questi appuntamenti per farsi sentire. Quindi c'era una rabbia, una determinazione che cresce, ed è una rabbia che è rivolta verso tutto il palazzo di centrodestra e di centrosinistra, come diavolo si chiamano oggi, indistintamente, perché vede che in realtà alternative vere in campo non ci sono. Noi siamo stati fino adesso, appunto, Monti andava all'estero e incontrava i governanti greci, spagnoli, portoghesi, diceva gli italiani accettano, gli italiani hanno capito, no? E quindi da noi non ci sono le proteste che ci sono da voi, ma è solo una miccia a effetto ritardato, succederà anche da noi. Certo, da noi c'è una situazione diversa perché c'è una situazione sindacale molto diversa, basta vedere, quindi ritiro in questo le cose che ho detto all'inizio, basta vedere le foto dello sciopero generale in Spagna che ha visto una presenza enorme di tutti i grandi sindacati, anche dei più moderati assieme, e vedere la situazione sindacale italiana, che è penosa da questo punto di vista, perché abbiamo due sindacati che non CISL e UIL, che come si sa non sono fuori da qualsiasi mobilitazione, anche dalle mobilitazioni europee, anche perché la CES, la Confederazione Europea dei Sindacati, sia un'organizzazione di rivoluzionari, mi è capitato di incontrarli, tutt'altro, ecco. Però voglio dire, se danno un segnale di mobilitazione, insomma, il fatto che in Italia, che siamo appunto tra i paesi, come si dice, PIGS, non ci sia una mobilitazione comune di tutti i sindacati è un segnale. E poi è inutile nasconderlo, sulla CGIL, che pure ha fatto la mobilitazione, pesa enormemente il ruolo del Partito Democratico, il suo peso, il suo fatto che il Partito Democratico tiene i piedi in due staffe: da un lato cerca di far vedere che non è proprio come Monti, però è l'architrave della politica e del sostegno al governo Monti. E a maggior ragione sono molto d'accordo con te, e a maggior ragione io credo che questo peso dell'ipocrisia della politica, del fatto che sia un peso molto più importante di quanto non sembra, perché poi il PD in realtà si candida insieme all'UDC a essere la continuità di Monti, quindi da questo punto di vista io sono divergendo sulle cure, ma anche qua io mi ritrovo nella radicalità della lettura di Giorgio Cremaschi, come in quella prima di De Masi. Poi possiamo non condividere, lui è tra chi dice ripudiamo una parte del debito, io sono tra chi dice è lo Stato con il suo patrimonio che deve abbattere il debito, però noi dialoghiamo di come si fa a evitare il massacro fiscale e sociale che è stato anche in Italia, ma come negli altri paesi, da noi ancora di più, visto che lo Stato qui fa ancora più fisco e repressione fiscale che altrove, ma che è il massacro di milioni di europei di fronte a quello che sta succedendo. Divergeremo io e lui sulle ricette, divergeremo io e De Masi ha un'idea che viviamo in una specie di grande bolla che ci impedisce di capire che crediamo in uno sviluppo non più perseguibile e che in realtà dovremmo organizzare una società avanzata sul fatto che non si lavora, bisogna lavorare molto meno di prima, ok, ma il problema è che noi parliamo dei fenomeni con cui siamo alle prese. Anch'io condivido quello che ha detto Cremaschi: quando io mi trovo di fronte gelatine che propongono alleanze tra loro, io non riesco mai a capire, ma voi continuerete avanti su questa repressione fiscale in corso? Sì o no? La smetterete? Ma se la smetterete, seguirete la via di chi dice ribelliamoci del debito pubblico, come dice Cremaschi, o la via di chi dice come me è lo Stato che deve pagare la patrimoniale, visto che ha molti denari e fino a questo momento li prende solo a chi ne ha meno in Italia? Non lo so, tentiamo di darci da fare, ma di capire che per milioni di italiani è venuto un punto di non continuità della loro vita in queste condizioni. Può essere che sbagliamo, può essere che Cremaschi sia estremista, che io sono estremista dalla parte opposta, che De Masi è lunatico, può essere che abbiano ragione loro, ma a me non pare, a dire la verità. Io ringrazio anche Giorgio Cremaschi per le sue parole franche che ha qua pronunciato. Eccoci qui, tornati, e this is the end. Insomma, anche oggi si attaglia, visto le scene che abbiamo visto e visto quelle che poi potrebbero riprodursi, perché i fenomeni della protesta hanno radici vere. Sentiamo un po' di voi, cominciamo con Domenico. Domenico che ci chiama da Roma. Domenico, come la pensi? Buongiorno Stagionino. Guardi, le dico subito, io ho 54 anni e sono papà di due ragazze grandi, d'accordo? Cioè, sentire il ministro Riccardi, che è rivolto a dei giovani che sono, e ora hanno 17, 18, 20 anni, no? Dice: guardatevi dentro, dovete isolare, vi strumentalizza, eccetera eccetera, quando abbiamo visto che loro non sono stati in grado di isolare, no, facce di ladri e cose varie, cioè mi fa arrabbiare veramente, cioè mi trova disarmato di fronte ai miei figli per fargli capire che la violenza non è giusta. Ma come glielo facciamo capire? E poi dico l'ultima cosa: oggi ci siamo noi che abbiamo visto gli anni di piombo e forse riusciamo a tenerli un po' fermi, no? Ma fra qualche anno, secondo me, non ci saremo più. Ma questi ragazzi, che Italia gli stiamo lasciando? Ecco, questa mi sembra una domanda giusta e mi fa piacere, Domenico, che tu abbia evocato anni. Io ho avuto anni tragici a Torino, cioè il papà di Ghiglieno, compagno di liceo, ucciso sotto i nostri occhi, l'irruzione di prima linea al BIT a Torino, un mucchio di funerali, chi distribuiva pistole ai minorenni al mio liceo durante il rituale quotidiano assalto alla sede fronte alla giunta a Corso Francia. Ecco, io penso che noi che ci siamo passati abbiamo il dovere di evitare queste robe qua. È molto complicato spiegarlo ai figli, grazie al cielo loro non vivono però quell'area di violenza demenziale di cui noi eravamo portatori. Walter da Firenze, come la pensa Walter? Buongiorno. Sì, io sono concordo pienamente con l'analisi di De Masi, il suo primo ospite. De Masi. Ecco, le posso garantire, io lavoro per una cooperativa di servizi all'impresa, le posso garantire la situazione non è drammatica, è di più. Peggio, E chi non si accorge che stiamo veramente prendendo una piega tremenda fa un errore clamoroso, perché qui stiamo veramente non tenendo conto di situazione veramente al limite. Io le posso garantire che la situazione sul campo è di una difficoltà estrema. Walter, credo che tu abbia assolutamente ragione, Walter. Sentiamo ancora rapidissimamente Claudio, la provincia di Vicenza. Claudio. Buongiorno Giannino. Sì. Premetto una cosa, sono sempre stato contro i Black Bloc, sì, e chi ha fatto violenza e chi perpetra violenza, però ricordiamoci bene una cosa, io sono solidale invece con quei giovani che hanno manifestato ieri, non tanto contro la polizia ma quanto contro il palazzo, contro il governo. Attenzione, perché finché trovano i sbarbatelli, non è offensiva nei confronti di questi ragazzini di 14 anni. Ricordiamoci una cosa, quando la gente, la pancia della gente avrà fame veramente e scenderemo. Sì. Non dico scenderemo in piazza, a quel punto di piazza. È chiarissimo, se ne vedranno del bel, ma io sapevo che coi telefoni questa era, cioè più la gente che comprende di quella che condanna la scontro di ieri, ne tenga conto il palazzo. Intanto noi, per noi appuntamento a domani.